358. Osso buco. Questo è un piatto che bisogna lasciarlo fare ai milanesi, essendo una specialità della cucina lombarda. Intendo quindi descrivervelo senza pretensione alcuna, nel timore di essere canzonato. È l'osso buco, un pezzo d'osso muscoloso e bucato dell'estremità della coscia o della spalla del vitello di latte, il quale si cuoce in umido in modo che riesca delicato e gustoso. Mettetene al fuoco tanti pezzi quante sono le persone che dovranno mangiarlo. Sopra a un battuto crudo e tritato di cipolla, sedano, carota e un pezzo di burro, conditelo con sale e pepe. Quando avrà preso sapore, aggiungete un altro pezzetto di burro intriso nella farina per dargli colore e per legare il sugo, e tiratelo a cottura con acqua e sugo di pomodoro o conserva. Il sugo, passatelo, digrassatelo e rimesso al fuoco, dategli odore con buccia di limone tagliata a pezzettini, unendovi un pizzico di prezzemolo tritato prima di levarlo dal fuoco.